Il mio essere speciale mi ha portato storie nuove, esperienze di una certa complicità, quasi a dimenticare la mia storia più importante. Se ci penso ancora brucia nell'anima, è un fattore naturale, non si può più pensare di tornare indietro senza accettare il senso diverso che il futuro darà. E spesso ti sento, sei nell'aria, hai lasciato tracce inconfondibili, come un assassino senza alibi, rivedendo quella fotografia, il tempo che sembra non esser passato mai. E voler riprovare a distanza di tempo è rischioso, che può farci bruciare noi. Se ti può consolare, è difficile adesso rivederti come quella di un tempo. Non mi pento, è lo stesso se torno con te. Amo il rischio, il cuore comanda per me, yeah. Hai lasciato tracce inconfondibili, come un assassino senza alibi, rivedendo quella fotografia, il tempo che sembra non esser passato mai. Hai lasciato tracce inconfondibili, come un assassino senza alibi, rivedendo quella fotografia, il tempo che sembra non esser passato mai.